Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Città Fujiko Live Club, la trasmissione che ogni mercoledì per un paio di ore vi propone musica registrata dal vivo, musica ufficiale registrata dal vivo di ogni epoca e quasi di ogni genere, il tutto da Radio Città Fujiko sui 103.1 MHz modulazione di frequenza stereofonica. Ma potete ascoltarci anche sul web tramite l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it. Inoltre, negli ultimi tempi, c'è anche la possibilità di ascoltarci tramite il DAB. Come sempre anche la trasmissione di oggi, 5 marzo 2025, inizia con una novità che riguarda ancora lo scorso anno, siamo ancora alle uscite discografiche del 2024 e in questo caso abbiamo un gruppo britannico che non è molto conosciuto dalle nostre parti, che però ha un certo successo in Gran Bretagna, si chiamano Embrace, che starebbe per diciamo abbraccio, ma effettivamente vorrebbe dire anche amplesso, mettetela come volete voi. È un quintetto che arriva da un posto sperduto che si chiama Bailiff Bridge nello Yorkshire e che è stato attivo dal 1990 al 2006, poi sono sciolti, però si sono riformati nel 2013 e sono tuttora attivi, tanto che questo album è stato registrato lo scorso anno, ma questo ne parlerò fra poco, perché la band è capitanata da due fratelli, Danny il cantante e Richard il chitarrista McNamara. Hanno fatto un sacco di album dal vivo, fra cui diversi che sono però reperibili solamente sul loro sito web. Out of Nothing è stato il loro album di maggior successo, un album del 2004, e fra l'altro c'era anche una cover di un brano dei Coldplay, ma quello per il momento non ci interessa. E il 27 giugno scorso, appunto 27 giugno 2024, in occasione del 20° anniversario dell'uscita di Out of Nothing, loro hanno suonato tutto l'album dal vivo in una vecchia abbazia in rovina che è vicino a Leeds, si chiama Kirkstall Abbey, ed è uscito poi questo album che racchiude quel concerto, per meglio dire solamente la parte relativa alla riproposizione in toto di Out of Nothing. Il titolo dell'album chiaramente si chiama Out of Nothing Live a Kirkstall Abbey ed è stato appunto registrato nel luglio dello scorso anno, come vi dicevo. Questo quintetto è uno dei tanti del Britpop che ha successo in Gran Bretagna, ma un po' meno nel resto del mondo. Comunque ci andiamo subito ad ascoltare il brano che ho scelto per voi per aprire questa trasmissione di oggi. Si chiama Near Life, loro sono Embrace. We'll be right back. Penultimo brano della versione originale, quello in studio di Out of Nothing, uscito tanti anni fa, nel 2004, E penultimo brano, giustamente anche nella riproposizione integrale che ne hanno fatti gli Embrace il 24 luglio scorso, e immortalato in questo album che si chiama Out of Nothing Live at Kirk's Abbey. E il problema, diciamo così, fra virgolette, sempre per quel che mi riguarda, è che potevano metterci anche qualche canzoncina in più, perché effettivamente c'è solamente proprio tutto Out of Nothing e basta. Ma comunque il brano che ci siamo ascoltati si chiama Near Life, loro erano Embrace. Come vi dicevo, gli Embrace sono capitanati da due fratelli, e questo mi ha dato lo spunto per la prima parte della trasmissione, che, nella quale ci ascolteremo bands che hanno all'interno una coppia di fratelli. Iniziamo dalla cosa più antica che ci ascolteremo, è del 1975, e dopo l'esperienza con i Cream, con i Blind Faith, con Air Force, Ginger Baker si unì ai due fratelli Garvitz, Adrian chitarra e voce e Paul basso e voce. Loro arrivavano da una band che si chiamava Gun, assoldarono anche un cantante e un tastierista, e esordirono nel 1974 sotto l'egida Baker Garvitz Army. Loro sono stati insieme pochissimo tempo, si sono sciolti anche in modo tragico, nel senso che il loro scioglimento è dovuto al fatto che nel 1976 il loro manager morì. Già evidentemente all'interno della band non correva buon sangue, per cui decisero proprio di sciogliersi. Durante questi due anni non ci sono state registrazioni live pubblicate, ma dal 2005 ne sono arrivate addirittura quattro live album, alcuni con alcune ripetizioni al proprio interno. Quello che ci ascoltiamo oggi si chiama Live 1975, ed è stato registrato per la massima parte alla Reading University il 15 febbraio del 1975, almeno il brano che ci andremo ad ascoltare. Ci sono altre registrazioni che sono state effettuate invece a Londra, ma a dire il vero, due dei quattro brani che ipoteticamente sono registrati a Londra, alla fine del secondo brano c'è un ringraziamento in italiano, proprio grazie, e un ringraziamento grazie a Milano, per cui mi sembra abbastanza difficile che siano stati registrati a Londra. Comunque il pezzo che vi propongo, che si chiama The Gambler, è stato effettivamente registrato alla Reading University il 14 febbraio del 1975, Baker Garvitz Army. Thank you. Okay, let's have a go at the single. Let's think the song about a jazz band, partly. A song called The Sultans of Swing, because the band, that's what the band was called, Sultans of Swing. Okay. Sultans of Swing. Forse non tutti ricordano che nella prima formazione dei Dire Straits, quella che incise i primi due album, oltre a Mark Knopfler c'era anche suo fratello David Knopfler, che fondò la band insieme a lui appunto nel 1977. David poi lasciò la band nel 1980 durante la registrazione del terzo album e prima del grande successo che poi ebbe in seguito la band Dire Straits, che conoscete sicuramente meglio di me. Questa registrazione di Sultans of Swing arrivava da un BBC Live in Concert registrato al Paris Theatre di Londra il 22 luglio del 1978. E di fratelli litigiosi nell'ambito della musica rock, non solo rock, ce ne sono stati veramente parecchi. I primi che vengono in mente sono naturalmente i Kings con i fratelli Davis e gli Oasis chiaramente con quegli altri due, e però anche i fratelli Reed, coloro che hanno fondato Jesus and Mary Chain, non scherzavano. Infatti è successo anche che si sono picchiati direttamente sul palco, e quindi veramente una cosa molto molto deleteria. Loro sono formati nel 1983 a East Kilbride, che è in Scozia. Poi nel 1999, in seguito all'ennesimo litigio, si sono sciolti, ma nel 2007 sono tornati tra noi e lo sono tuttora. Jim è il cantante, William è il chitarrista, e si chiamano Reed, questo l'ho già detto, di cognome. Hanno fatto tre album dal vivo, questo è l'ultimo, che si chiama Sunset 666. È stato registrato all'Hollywood Palladium di Los Angeles il 15 dicembre del 2018, e questo che ci andiamo ad ascoltare è veramente un super classico, si chiama Some Candy Talking. The place tonight. That's it for the Monday. Reach for the sky. What is this? Reach for the sky. Reach for the sky. From person to person, from nation to nation. Free yourself with the word of creation. Hello, thanks everyone for coming. Sorry there's no beer for everyone, but we couldn't do anything about it. It's the Puritans don't like it. You think you're all hooligans and you can't drink. e fratelli Ryder, Sean il cantante e Paul il bassista e tastierista, fondarono insieme all'amico Bez questi Happy Mondays che ci siamo ascoltati in quel di Salford, un agglomerato che fa parte della Greater Manchester, e sono attivi fin dal 1980, anche se poi si hanno avuto diverse interruzioni. E Paul, il fratello bassista, purtroppo ci ha lasciato nel 2022 all'età di 58 anni, giovanissimo oserei dire, e il giorno in cui dovevano suonare a un festival nel Sutherland in Gran Bretagna praticamente non si è risvegliato. Il live che ci siamo ascoltati si chiama proprio Live, è il primo album registrato dal vivo della band ed è stato registrato al United Football Ground di Elland Road a Leeds, quindi un campo di calcio, in pratica uno stadio più che un campo di calcio, il primo giugno del 1991, e questo era il brano di apertura del concerto, si chiama Hallelujah. Una band che arriva da un luogo abbastanza sconosciuto, almeno a chi vi sta parlando, si chiama Wilmslow, nel Cheshire, in Gran Bretagna. Sono stati attivi dal 1998 al 2010, poi sono sciolti, ma anche loro, come tanti altri che vi faccio ascoltare, si sono riformati nel 2018. Ho dimenticato di dire che questa storia dei fratelli, per quel che riguarda questa trasmissione, per quel che riguarda oggi, sarà improntato, ma l'avrete già capito, solamente sulla parte britannica. Poi per i fratelli americani ne parliamo un'altra volta. Comunque questa band del quale avevo iniziato a parlare si chiamano Doves, come colombe, e sono due fratelli gemelli, Jazz che suona la chitarra e Andy che suona la batteria, Williams di cognome. Fratto, è uscito proprio in questi ultimi giorni un nuovo album che si chiama Constellation for the Lonely, che non ho ancora sentito, ma penso che sia più o meno sul genere dei loro album usuali. Qui abbiamo un extended play che si chiama Live at Eden. Eden è un luogo che sta in Cornovaglia, che è una specie di zona protetta, ci sono boschi, ci sono tante cose naturalistiche, e ogni tanto organizzano dei concerti, ogni tanto spesso, per appunto raccogliere fondi. Il tutto è stato registrato il 12 luglio del 2002, è un extended play, come vi dicevo, sono solamente 6 brani, tutti relativamente corti. Quello che ho scelto per voi si chiama Pounding, loro invece si chiamano Doves. Thank you. Ecco, una band dal suono riconoscibile all'istante e direi praticamente unico. Si chiamavano Japan, venivano dalla sud di Londra e sono stati attivi dal 1974 al 1982. Poi, una cosa veramente stranissima, si riformarono nella stessa formazione dal 1989 al 1991, però invece di chiamarsi Japan si chiamavano Rain Tree Crew, non so bene perché, ma al loro interno c'erano due fratelli, David Sylvian alla chitarra e alla voce, Steve Jensen alla batteria. Erano due nomi fittizi, due nomi d'arte, diciamo così. Il loro cognome vero è Butt. Oil on Canvas è il doppio album che ci siamo ascoltati, veramente notevole, è stato pubblicato postumo dopo lo scioglimento, anche perché questo del 16 novembre 1982 Hammersmith Odeon di Londra era uno dei loro ultimi, se non l'ultimo concerto. Un classico della loro produzione, che era anche la title track del loro quarto album, si chiama Gentlemen Take Polaroids. Loro erano Japan. Gli scozzesi, si sa, sono molto nazionalisti e ci tengono alle loro tradizioni e alle loro bands. Run Ring sono poco famosi dalle nostre parti, almeno credo, ma in Scozia loro provengono dall'isola di Skye, erano molto popolari, perché dopo 45 anni si sono sciolti nel 2018. Appunto, dopo 45 anni hanno fatto l'ultimo concerto in un posto magnifico, che è Stirling Castle, Stirling in Scozia naturalmente, il tutto il 18 agosto del 2018. È un triplo dischetto veramente notevole, come molti altri live di questa band, che ne ha fatti parecchi a dire il vero. Il brano che ho scelto per voi per chiudere questa prima parte si chiama Protect and Survive, loro si chiamano Run Rig. distant hill, a wasted voice, a silent scream. The lover's love and the dreamer's dream, you stand and dream alone. You take your sacrifice to the gods of war, take your children's lives for a mess of gold, and you beat your plowshares into swords. Once in a lifetime, you die. Once in a moment, the sun goes down. Once in a lifetime, you die. Once in a lifetime, you die. Once in a moment, the sun goes down. Seconda parte di Città Fujiko Live Club del 5 marzo 2025, seconda parte che naturalmente è iniziata con la novità che vi propongo quest'oggi. Sono gli Embrace, quintetto britannico che ha pubblicato questo album che si chiama Out of Nothing Live at Crystal Abbey, che ripropone integralmente il loro album più famoso, che si chiama appunto Out of Nothing, uscito nel 2004. Questa registrazione invece è stata effettuata il 27 luglio dello scorso anno in questa abbazia, nelle rovine dell'abbazia che è vicino a Leeds, naturalmente in Gran Bretagna. Il pezzo si chiama, come ha annunciato il cantante, si chiama Ashes. A questo punto devo fare un piccolo passo indietro, perché prima ero un po' lungo e ho dimenticato di dirvi che all'interno dei Run Rig, che è l'ultima band che ci siamo ascoltati nella prima parte, i due fratelli sono Rory, bassista e cantante, e Callum, percussionista, McDonald. Questo era dovuto ai Run Rig, con tante scuse, ma a questo punto arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, e ancora oggi tantissime, ma tantissime cose, e andiamo subito ad iniziare. Iniziamo da una band che non ha bisogno di presentazioni, così faccio presto. Si chiamano Rolling Stones, sono, dirò solamente che sono attivi solamente dal 1962, fate voi i conti. La cosa che ci andiamo ad ascoltare è un album che si chiama God Life If You Want It, è un album che è uscito negli Stati Uniti solamente, mentre in Gran Bretagna è uscito un extended play dello stesso titolo, ma con solamente sei pezzi diversi da quelli che sono contenuti nella versione americana. Contrariamente a quanto c'è scritto da qualche parte nel booklet, non tutti i brani sono registrati alla Royal Albert Hall. Infatti quello che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato alla Regal Theatre di Londra, sempre, che non è la Royal Albert Hall, è un'altra cosa, ed è un brano che non è dei Rolling Stones. All'inizio della carriera facevano molte covers, ne fanno qualcuna ogni tanto anche adesso, e questa soprattutto la fanno anche adesso. Infatti si chiama Time Is On My Side, è un brano di Norman Mead, e ce lo andiamo ad ascoltare in questa registrazione del 5 marzo 1965, Rolling Stones. Yeah. se ho fatto bene i conti, si tratta di 60 anni fa, 5 marzo 1965, Rolling Stones, già con grandissimo successo, fra parentesi, dalla versione originale, questa è una ristampa in CD, dalla versione originale su Long Plain, gli applausi, le urla, le grida, soprattutto delle ragazze, sono stati molto molto limitati, perché nella versione originale che ho avuto modo di ascoltare praticamente la musica non si sente, è un urlo continuo. Comunque questa era Time Is On My Side, Regal Theater di Londra, 5 marzo 1965, The Rolling Stones. Altro personaggio che spero non abbia bisogno di presentazioni, una grandissima, grandissima cantante che ha dato tanto alla musica soul, rhythm and blues e a tutto il genere musicale, a dire il vero. Veniva da Memphis, Tennessee, purtroppo è morta nel 2018, ci sono state le grandi manifestazioni in occasione del suo funerale, e sto parlando di Aretha Franklin. Lei iniziò giovanissima, come molte cantanti soul, rhythm and blues, con un coro gospel nella chiesa che il padre gestiva, e poi ha cominciato la propria carriera solista negli anni 50. Qui abbiamo una registrazione effettuata a San Francisco, si chiama Live at Fillmore West. Fillmore West era un locale gestito da Bill Graham, che aveva questa caratteristica: ogni sera nel cartellone si potevano trovare musiche diverse. Appunto, c'è stata Aretha Franklin, famosa una serata in cui c'erano nello stesso cartellone Neil Young e Miles Davis, scusate se è poco. Qui invece il 5 marzo 1971 Aretha Franklin era in concerto e ce lo andiamo ad ascoltare con un brano che ha scritto lei stessa, e non sono tantissimi. Il brano si chiama Dr. Feelgood, Aretha Franklin, 5 marzo 1971. Thank you. gonna be alright. E qui scivola verso il brano seguente, grande cantante Aretha Franklin, dagli outfit spesso discutibili, ma la musica è tutta un'altra cosa. Veramente grande questo Dr. Feelgood, registrato al Fillmore West di San Francisco il 5 marzo 1971. I'm getting the spirit. Molto velocemente, ancora una volta sono in ritardo, Marillion, grande band britannica della seconda ondata del progressive, ha avuto una carriera in due parti. La prima parte è quella che vedeva Fish al canto, Fish, grande cantante, 1981-1988, poi dopo è arrivato Steve Hogarth, ma quella era un'altra storia. Un sacco di album live che sono praticamente quasi tutti reperibili solamente sul loro sito web, andate a vedere perché veramente notevole. Doppio album che si chiama The Thieving Magpie, detta all'italiana, fra parentesi oltretutto nel titolo, La Gazza Ladra, che è l'intro che loro usavano nei concerti, naturalmente from Rossini, come si suol dire, e questo che è il secondo album live appunto The Thieving Magpie, La Gazza Ladra, è stato registrato in diverse occasioni. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, Chelsea Monday, è stato registrato alla The Montford Hall di Leicester il 5 marzo del 1984. Loro si chiamano Marillion e il pezzo loro si chiama Chelsea Monday. This is called Chelsea Monday. Dreams auditioning for the leading role on the silver. La bellissima voce di Eddie Vedder caratterizza la musica dei Pearl Jam, gli altri musicisti non sono da meno naturalmente, Come saprete sicuramente, loro arrivano da Seattle, stato di Washington, e sono attivi dal 1990. Fra l'altro sono molto politicamente, diciamo così, coinvolti, appoggiano moltissime cause umanitarie, moltissime associazioni, e qualche anno fa, ormai diversi anni fa, ebbero un conflitto con Ticketmaster, che è l'equivalente della nostra Ticket One, che però agisce praticamente in regime di monopolio negli Stati Uniti. Loro cominciarono a fare tour, cercarono per meglio dire, di fare tour organizzati da loro stessi, però in seguito all'ostracismo dei gestori dei vari posti in cui dovevano suonare, spaventati poi che Ticketmaster non li desse più nessun'altra band, il tour praticamente andò a finire in niente. Però merito loro di tutto questo. Sono stati a Bologna, non so se ve lo ricordate, era il 14 settembre del 2006, grande concerto, anche perché prima in apertura c'erano niente po' di meno che My Morning Jackets. Hanno fatto un sacco di bootlegs ufficiali, praticamente dal 2000 tutti i loro concerti sono reperibili sul loro sito, sia in versione download che in versione fisica. Giveaway è l'album che ci siamo ascoltati, è un album singolo, è uscito per il Record Store Day del 2003 ed è stato registrato al Melbourne Park di Melbourne, Australia, il 5 marzo del 1998. A proposito di Record Store Day, quest'anno sarà il 13 aprile prossimo, per cui ne parleremo diffusamente a ridosso di quella data. Il pezzo che ci siamo ascoltati è un super classico dei Pearl Jam, bellissimo secondo me, si chiama Black. Era, ho detto, il 5 marzo 1998. E chi era all'ascolto della prima parte avrà intuito, diciamo così, che nella prima parte era dedicata a bands britanniche con fratelli all'interno della formazione. Qui abbiamo due fratelli in questa formazione che però è americana, e anche il nome la dice lunga, si chiamano Wood Brothers, appunto i fratelli Wood. Uno suona la chitarra e canta, che è Oliver, e Chris invece è il bassista. Completa la band un multistrumentista che si chiama Jano Ricks. Fra l'altro Chris, il bassista, l'abbiamo visto al Duse il 20 novembre del 2014 in compagnia di Medeski Martin Wood, appunto la band di quale fa parte, insieme a John Scofield nell'ambito del Bologna Jazz Festival di quell'anno. Fu un concerto veramente memorabile. Live at Tonic's EP è un extended play che racchiude alcuni dei brani che sono stati registrati nel corso del primo concerto che i Wood Brothers hanno effettuato in assoluto, ed era al Tonic, appunto si chiama così il locale, ed era il 5 marzo 2005. Il pezzo che ho scelto per voi ha il nome di un'auto molto famosa, si chiama Chevrolet. Wood Brothers, 5 marzo 2005. Primo concerto in assoluto per quel che riguarda i Wood Brothers, era il 5 marzo del 2005 e il tutto al Tonic di New York City, che ha visto questa band suonare anche altre volte in locale, naturalmente sto parlando di quello. Il brano si chiama Chevrolet, è l'ultimo brano di questo Live at Tonic EP, che racchiude appunto questo primordiale concerto dei Wood Brothers, che si hanno ricollegato alla prima parte della trasmissione che era dedicata ai fratelli. A concludere Record Today di oggi, ma anche Città Fujiko Live Club, arriva un super gruppo: Stuart Copeland, batterista from the States, Mark King, bassista dei Level 42 dal Gran Bretagna, Vittorio Cosma, tastierista cantante dall'Italia, Adrian Bilou, chitarrista cantante dagli States, anche lui. Si sono formati a Milano nel 2017 e sono attivi tuttora, anche se attivi se è un termine un po' forte, visto che ogni tanto si trovano, fanno un disco e poi qualche concerto e poi ognuno va per la propria strada. Questo album che ci andiamo ad ascoltare è attribuito ai quattro: Copeland, King, Cosma e Bellew, ma in realtà anche loro, fra di loro, si chiamano Gizmodrome, e questo album si chiama Gizmodrome Live. È stato registrato in diverse occasioni, in diverse epoche. Il brano che ci andiamo ad ascoltare e che conclude questa trasmissione è stato registrato in Germania, questo però ve lo ridirò dopo, perché adesso vi devo ricordare che vi siete beccati un paio di ore di musica live dai 103.1 MHz modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko. Città Fujiko Live Club, la trasmissione che sta terminando e che vi dà appuntamento a mercoledì prossimo, stesse modalità d'uso, c'è anche il web naturalmente, c'è anche il DAB e stesso tutto, sempre immarcescibile, oserei dire. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è un brano che riconoscerete, si chiama Don't Box Me In, ed era la colonna sonora di un film che in Italia si chiamava Rusty il Selvaggio, non ricordo il titolo in inglese, ed è un brano che è stato scritto da Stan Ridgway dei Wall of Voodoo insieme a Stuart Copeland, per cui è di diritto in questa scaletta. Colossal Aschaffenburg o qualcosa del genere, è una città tedesca, Aschaffenburg, facciamo così. Il tutto è stato registrato il 5 marzo del 2018. Il brano, ripeto, si chiama Don't Box Me In, loro si chiamano Gizmodrome. Ciao a tutti da Nevio. Just what I- to a brand new skin. And then you won't be able to box me in. Don't box me in. Don't box me in. Don't box me in. Let go. From the bowels of the earth.